Io sono contrario al nucleare, perché non esiste un modo sicuro per smaltire le scorie. Io sono a favore, perché noi le scorie le buttiamo da 30 anni a mare con tutte le navi e ci prendiamo anche i soldi dell'assicurazione. Io sono contrario, perché così non facciamo altro che rimandare il problema di un centinaio d'anni. Io sono a favore, perché tanto chi cazzo ci campa 100 anni con tutte queste scorie? Io sono contrario, perché anche plutonio ed uranio stanno finendo. Io sono a favore, perché intanto mi fotto i soldi dei finanziamenti. Io sono contrario, perché prima di fare questa scelta vorrei che si provassero altre vie, come le energie rinnovabili. Ah, e io sono a favore, perché l'energia rinnovabile è delocalizzata, capisci? Garantirebbe troppa indipendenza ai singoli, mentre quella centralizzata dei mega impianti è tutta in mano nostra. Io sono contrario, specie per l'Italia. Sono 30 anni che non è cazzo nostro finire in autostrada. Sai che macello faremmo con le centrali nucleari? Io sono a favore, soprattutto in Italia, che tanto l'importante è che ci fottiamo i soldi dei cittadini. Davvero pensi che ci importi qualcosa dell'indipendenza energetica del nostro paese? Io sono contrario. Hai visto cosa è successo in Giappone? Non dimenticare che l'Italia, e più in particolare il meridione, è una delle zone d'Europa più a rischio dal punto di vista sismico. Babbo, te ne ragione, ma mo l'amo finuta con su cinema i cazzi, la venire, e detto calare, te, pietro diavolo, te, pietro diavolo. Ora Simpson, visto che Danny sei un esperto tecnico nucleare, ti imbarcheremo sul sottomarino nucleare. Nuculare, si pronuncia nuculare. Buonasera da Pierpaolo e Ciccillo. Questa è Banda Armata in diretta sulle frequenze di Fuori Onda Radio ed in differita ogni giovedì su Radio Ciroma 105.7 nella zona di Cosenza alle 17 e su transizionedifase.org altra web radio alle 21. Questa sera siamo particolarmente tristi perché ci manca il nostro carissimo subcomandante Tarlo. La trasmissione ci sarà comunque, andrà avanti comunque, ma abbiamo il cuore particolarmente triste. A meno di lui, diciamo, anche se i risultati non saranno eccezionali sicuramente, però insomma, tentiamo di fare il nostro possibile. Senza Tarlo non è lo stesso. Bene, vediamo un pochettino di capire di cosa parleremo stasera. Anche questa puntata sarà abbastanza ricca. Partiremo dalla questione internazionale, dalla guerra in Libia, in generale parleremo della situazione del mondo arabo. Poi passeremo alle questioni universitarie, alla campagna referendaria per l'acqua bene comune contro il nucleare. Parleremo del caso Marlane ed infine della sgraditissima visita di Francesco Storace a Cosenza venerdì pomeriggio, che ha assunto dei momenti rimarchevoli, oserei dire. Ma prima di parlare di tutto ciò, prima di partire a discutere ancora anche questo martedì sera o giovedì per chi ci ascolta in differita, beccatevi la nostra solita esilarante sigla. Razzinga! Trema il regno delle tenebre del male, dalla fortezza di San Pietro arriva, coi pugni teologici. Razzinga! Razzinga! Sagrato contro il male, se sei nemico prega è già finita, la chiesa mattina dice Razzinga, Razzinga, croci rotanti, Razzinga, Pater Noster, Razzinga, ostia di fuoco, ma la mente di Lutero ma tutto il resto va da sé. Italiane, che cos'è? Lotta cade, si rialza, sempre vincerà. Ratzinga! Ratzinga! Rosario atomico! Ratzinga! Lama del diavolo! Ratzinga! Doppio amen! Forte! Con uno sguardo spacca in due conclave! Dagli occhi sputa fuori salmi gamma! Non c'è chi è forte più di te, Ratzinga! Fa da sé, non conosce la paura, né sa italiane che cos'è. Se bisogno puoi invocarlo, con la Bibbia apparirà. Ratzinga! Ratzinga! Bombe gnostiche! Ratzinga! Luce divina! Ratzinga! Spada teologica! Ratzinga! Sermone! Santa, lama diabolica, doppio rosario. E rieccoci nuovamente in onda, questa è Banda Armata. Iniziamo la nostra trasmissione e cominciamo a parlare, come spesso già abbiamo fatto nelle puntate precedenti, di Libia. È una delle questioni più importanti di cui sentiamo continuamente parlare, quindi bisogna parlarne, ci sentiamo di parlarne anche questa volta. Come già sapete, c'è in atto una guerra da diverse settimane, una guerra che inizialmente era una guerra civile fra dei ribelli e le forze governative, e che da qualche settimana, da 3 settimane a questa parte, è diventata un'altra, l'ennesima guerra di aggressione imperialista guidata ora dalla NATO, quindi dagli alleati occidentali. Abbiamo visto un pochettino di situazioni che sono cambiate in queste settimane. Inizialmente i ribelli erano andati in avanzata, avevano conquistato tante città, soprattutto la Cirenaica, per arrivare alle porte di Tripoli. Poi le forze governative si sono riorganizzate, hanno messo in atto una pesante controffensiva, specialmente utilizzando i bombardamenti con gli aerei. E quindi sono arrivati a loro volta alle porte di Bengasi, la roccaforte dei ribelli. Qui è intervenuta la NATO, quindi, come stiamo dicendo prima, la solita guerra di aggressione che mascherano con il termine di missione umanitaria, missione di pace. Alla fine c'è stato questo passaggio di consegna, diciamo, dall'ONU alla NATO, anche se ufficialmente era chiaro che, diciamo, il comando di queste operazioni militari passasse alle forze atlantiche, diciamo. Io non giungerei subito però alle conclusioni, caro Pierpaolo. Qui non si tratta di una guerra, diciamo le cose come stanno. Se il nostro Presidente della Repubblica ha detto che è una guerra, tra virgolette, per scopi umanitari, non la chiamerei così. La domanda che mi sono posto, diciamo, quel sabato in cui gli aerei hanno cominciato a fare incursioni nei cieli di Tripoli è stata: ma l'Italia, quando cazzo la fa allora una guerra? Perché a Sarajevo, quando bombardammo Sarajevo, pare che nemmeno quella era una guerra. Iraq e Afghanistan, nemmeno a pensare che fosse stato un intervento militare dei nostri soldati. Si tratta là di andare a esportare democrazia. Ognuno poi la esporta come vuole. Diciamo, non abbiamo la ricetta perfetta. In questo caso è una missione umanitaria, quindi non credo sinceramente che possiamo giungere a queste conclusioni affrettate, dai, insomma. Va bene, facciamo finta che sia una missione umanitaria e chiudiamo per l'ennesima volta gli occhi. L'Italia guerra non ne fa, tra l'altro. Abbiamo letto 2 settimane fa un pezzo della nostra Costituzione, in particolar modo l'articolo 11, che dice che l'Italia ripudia la guerra. Vabbè. Possiamo fare guerra, se la ripudiamo, che cazzo, scusami. Va bene. Dicevamo, in queste ultime settimane ci stanno susseguendo delle avanzate dei ribelli e delle controffensive dei governativi. Negli ultimi giorni i ribelli avevano ripreso il terminal petrolifero di Brega. È importante la città di Brega perché? Perché, come noi ben sappiamo, questa guerra si sta giocando molto su quelle che sono le questioni legate al petrolio e a tutto ciò che ne consegue. Oggi invece nuovamente le forze di Fedele Gheddafi stanno per riconquistare per l'appunto la città di Brega. Inutile nascondercelo, il petrolio è il motivo principale per cui le forze occidentali hanno deciso di intervenire negli affari libici. Gheddafi non è lì mica da due giorni o neanche da 10 mesi, è lì da oltre 40 anni e mi pare strano che le forze della NATO si siano accorte soltanto ora, soltanto nel marzo del 2011, che Gheddafi sia un dittatore, che Gheddafi sia spietato, che in Libia non ci sia nessuna pervenza di democrazia e di civiltà da questo punto di vista. Se ne sono accorti dopo 40 anni, sono un pochettino ritardati da questo punto di vista, o mi sbaglio? Ma mi ricorda qualcosa, non lo so. Ah, Saddam Hussein, fecero qualcosa del genere anche con Saddam Hussein, certo, vabbè, prima li avevano finanziati gli americani dandogli armi per combattere comunque i talebani e mantenere quello che era il potere di Saddam lì in Iraq, poi improvvisamente forse qualche meteorite o qualche allineamento strano tra pianeti del nostro sistema solare ha fatto scoprire a tutti noi che in effetti in Iraq non c'era più un illuminato reggente del paese, bensì un dittatore che, manca a farla apposta, aveva delle armi di distruzione di massa. Quindi, quale migliore modo per intervenire, diciamo, militarmente? Gli ingredienti c'erano tutti, la democrazia, sappiamo tutti che l'Occidente ha come principio fondamentale quello appunto della democrazia, quindi è bene intervenire laddove non ci sia. Comunque, scherzi a parte, diciamo, abbiamo pensato anche di avviare la nostra trasmissione con l'intervento ironico del nucleare, proprio perché probabilmente in questa fase di crisi dovuta a quello che è successo in Giappone, il petrolio sta di nuovo tornando a essere quella che è la fonte di energia principale per le nostre centrali elettriche e non solo. E quindi questo forte interesse adesso per il petrolio fa sì che probabilmente ci sarà, così come l'hanno chiamata d'altronde la missione Odissea all'alba, l'ennesima Odissea, l'ennesima Vietnam, l'ennesima Iraq, l'ennesima Afghanistan, anche lì in Libia, insomma. E sempre per continuare a parlare di petrolio, oggi i ribelli sono riusciti ad alimentare la prima petroliera per l'appunto dei ribelli. E qui è intervenuto la compagnia petrolifera del Qatar che si è impegnata a commercializzarla. Dicevamo anche nelle scorse puntate, ancora la guerra non è finita, ancora la guerra è lontana dal terminare, ci saranno purtroppo ancora tantissime altre vittime. Ma già chi ha gli interessi economici, commerciali, si sta muovendo in maniera molto molto convinta nell'andare a cercare accordi con i ribelli per avere dei buoni contratti domani. Sappiamo benissimo che l'ENI ha ancora dei grossi interessi, dei contratti piuttosto importanti pluriennali firmati con il regime di Gheddafi. Gli altri chiaramente stanno sfruttando, gli altri intendo le altre compagnie petrolifere di altri paesi, stanno sfruttando l'occasione per sostituire almeno in parte l'ENI. La compagnia del Qatar per l'appunto si impegnerà a commercializzare una quota del petrolio libico, che è tanto, la Libia per riserve di petrolio è la prima nazione africana, e analogo ragionamento stanno facendo anche i francesi. Diciamo la settimana scorsa la guerra diplomatica che si sta innescando fra Francia e Italia e che poi sta coinvolgendo anche altri ambiti molto probabilmente serve anche a far sì che la Total vada a sostituire un domani il l'ENI, quindi la Francia si impegna ad aiutare i ribelli per avere questo tornaconto piuttosto importante da un punto di vista economico. Sì, diciamo che la Francia ha battuto tutti sul tempo, pensate, ha battuto perfino gli Stati Uniti nell'intervento militare, voglio dire, una cosa che forse non è mai successa. E quindi questo ci fa capire che, diciamo, anche in questo caso le scuse che vengono citate, quali la missione umanitaria, non reggono in nessun modo. Non c'era nessuna fretta di applicare con forza questa risoluzione dell'ONU, se non per motivi che non sono affatto umanitari. La Francia è riuscita ad arrivare per prima, diciamo, in questa corsa al petrolio libico. Adesso non ci resta che vedere come va a finire, insomma. Direi che non ci resta che piangere, purtroppo, in maniera molto amara. Prima di mandare il primo stacco musicale, vediamo un pochettino cosa sta succedendo da un punto di vista diplomatico. La guerra sta cominciando a logorare entrambe le parti, sia i ribelli sia le forze filogovernative di Gheddafi, anche perché dal cielo purtroppo piovono bombe che, come al solito, non sono intelligenti, e oltre a colpire obiettivi militari, come al solito colpiscono anche obiettivi civili. Se non mi sbaglio, proprio ieri sono stati uccisi 11 ribelli, tra l'altro, che dovrebbero essere, secondo le intenzioni millantate dalla NATO, dovrebbero essere invece aiutati da queste bombe poco intelligenti. Beneficiari, diciamo, di questa guerra dovrebbero essere, dai. Vabbè, beneficiari è un termine paradossale in questo contesto, ma noi lo diciamo con il giusto sarcasmo, purtroppo. Dicevamo, in questa situazione, in questo contesto, Gheddafi sta iniziando a scricchiolare dalle sue iniziali posizioni, e si dice, per mezzo del suo portavoce, disponibile a negoziare, però, dice, per l'appunto, il suo portavoce, a patto che Gheddafi rimanga da lei. Perché? Perché, secondo quello che dice il regime, mi è molto curioso, Gheddafi non ha alcun incarico di potere, ma riveste semplicemente un ruolo simbolico. Pertanto, dicono i governativi, possiamo fare qualsiasi forma di transizione verso la democrazia, persino un referendum, scrivere una nuova costituzione, insomma, fare quel che vogliamo, a patto che Gheddafi rimanga dov'è. I ribelli ovviamente dicono no, Gheddafi deve uscire completamente fuori da quella che deve essere la scena interna, la scena libica del dopoguerra, e quindi le posizioni da questo punto di vista sono ancora abbastanza distanti. Comunque, continueremo a parlare della questione araba medio orientale dopo la prima canzone di questa sera, Lampet USA di Elio le Storie Tese. Diciamo, nelle chart della musica leggera mondiale, potremmo dire, dai. Molto divertente, a voi. Veniamo dalla Somalia e dalla Tunisia, alcuni anche dalla Libia, che poi la Giamahiria. Abbiamo preso i natanti con Mare Forza 6. Siamo venuti qui in tanti a Lampedusa. I bagni sono intasati e non si mangia mai, ma siamo tutti gasati di stare qui con voi. Se non c'è posto per tutti, che problema c'è? Siamo casa di bagnoli a Lampedusa. Ostacolare il turismo non era il nostro intento, ma il lampedusano medio non è molto contento. Adesso arrivano le navi, forse anche gli aerei, dopo arriva Berlusconi e tutto torna ok. Le casarughe e i fiori ritorneranno Ed eccoci nuovamente in diretta, questa è Banda Armata, ribadiamolo, in diretta su sulla web radio Fuori Onda Radio e poi in differita il giovedì alle 17 su Radio Ciroma e alle 21 un'altra volta sul web su transizionedifase.org. La canzone che abbiamo appena ascoltato, sarcastica, solito sarcasmo di Elio e le storie tese, si riferisce per l'appunto, come tutti avranno capito, alla situazione particolarmente problematica che si è venuta a creare da qualche settimana a questa parte a Lampedusa. Sappiamo tutti dell'enorme quantità di barconi, di navi, di gommoni che stanno solcando il Mediterraneo in queste settimane, sono tantissimi profughi, tantissimi migranti che dalle coste principalmente della Tunisia fino ad ora, ma stanno iniziando a venire anche dalla Libia, si stanno muovendo verso l'Europa e siccome la porta dell'Europa per loro è l'Italia e la Sicilia, in particolar modo è Lampedusa, si stanno dirigendo a Lampedusa. Sappiamo benissimo della vergognosa, della assassina politica che il nostro governo, specialmente per mano del ministro degli interni Maroni e in generale della Lega, sta mettendo in atto nella gestione di questa situazione, di questa emergenza. Quella che è stata chiamata gestione delle emergenze immigrati, con un termine veramente, veramente pessimo a nostro modo di vedere. Il governo ha obbligato i profughi, i migranti tunisini per lo più, a rimanere rinchiusi all'interno di questa piccolissima isoletta, che nel frattempo si è trasformata in un vero e proprio lager, in un ghetto in cui sono forzati a rimanere centinaia e centinaia, anzi qualche migliaio di migranti provenienti dalle coste del Nord Africa. Proprio oggi, dopo diversi giorni di trattative, di tira e molla, è stato firmato per mano del nostro ministro degli interni Maroni e del suo omologo tunisino, dopo un colloquio di ben 9 ore, un accordo bilaterale fra i due paesi, proprio per gestire questa emergenza. L'accordo, come era normale pensare, come ci si aspettava d'altronde, prevede un rafforzamento delle misure di polizia, quindi repressione come consuetudine in questi casi, ancora maggior ragione sapendo che al governo ci sta Berlusconi, che al governo c'è la Lega, che di queste questioni ne fa un fiore all'occhiello, purtroppo. Prevede degli impatti dei cosiddetti irregolari, che è un termine dispregiativo nei confronti di persone che vivono in una condizione di sofferenza incredibile e che vorrebbero semplicemente vivere un pochettino meglio arrivando in Europa. Si tratta, diciamo, di secondo le parole di Maroni, di prevenzione nei confronti dell'immigrazione clandestina, e utilizzando quelle che sono state le parole sia dello stesso ministro Maroni, ma soprattutto le parole di Bossi, si sono chiusi i rubinetti. Come se gli immigrati fossero merce, come se gli immigrati fossero, che ne so, del petrolio che fluisce dal rubinetto di un serbatoio o di una raffineria. Veramente scandaloso, vergognoso, xenofobo, razzista tutto ciò. Mi sbaglio, Cicillo? Non a caso, infatti, quando si parla di questi argomenti si considerano quelli che sono i flussi migratori, flussi di acqua, flussi di petrolio, flussi di persone in questo caso. Cioè, paragonare le persone, quindi, a delle merci, delle cose, insomma, è una delle cose più scabrose che si possa fare. Oltretutto, quello che mi viene in mente di un passato non troppo lontano sono stati gli accordi bilaterali che sono stati fatti tra Italia e Libia. E lì sappiamo bene come è andata a finire. Certo, in Libia c'era il dittatore Gheddafi, adesso in Tunisia c'è questo nuovo governo democratico, quindi possiamo stare tutti tranquilli. Ma non dimentichiamoci che in Libia, grazie a questi accordi bilaterali criminali, aggiungo io, moltissime persone provenienti da praticamente tutta l'Africa che tentavano di abbandonare paesi sia per le condizioni di miseria qui sono stati ridotti dall'Occidente, questo dobbiamo dirlo, questo fantomatico Occidente, quindi anche da noi, che da condizioni purtroppo dove nei loro paesi si svolgono ormai guerre civili non si sa più nemmeno da quanto tempo. Ebbene, grazie a questi accordi bilaterali, appunto, tra Italia e Libia, dicevo, il governo di Gheddafi ha istituito delle vere e proprie carceri in mezzo al deserto, rinchiudendo queste povere persone che tentano semplicemente di scappare, appunto, dalla miseria, dalla fame, dalla povertà. E dalle bombe in questo momento anche, non dimentichiamo, no? E attualizzando dalle bombe, rinchiudendoli in queste carceri nel deserto e lasciandoli lì morire, o nella lunga traversata, appunto, che li portava eventualmente verso il mare, oppure proprio torturandole e rinchiuse, appunto, in queste carceri. Ebbene, in ogni caso, penso che la storia ci insegni che la repressione non ha portato mai nulla di buono per queste condizioni, né trattare questa questione che, come dire, e questo sì è un vero e proprio dramma umanitario, trattarlo come un'emergenza anche in questo caso sarebbe da ipocriti. Quello che sta succedendo adesso a Lampedusa, l'hai già detto tu Piero, è davvero qualcosa che non ci aspettavamo di vedere, sebbene diciamo solo i miopi non potevano non aspettarsi un arrivo così massiccio di persone disperate dai paesi del Maghreb, che comunque erano appunto tutti in tumulto. L'Italia, come si suol dire, è stata presa con le brache calate, e a Lampedusa ci si è trovati nel giro di 3 giorni a fronteggiare quella che è stata proprio un afflusso massiccio di barconi provenienti dalla Libia, e non solo, Libia, Tunisia, Egitto anche. Consideriamo, Piero, noi sappiamo bene che sono arrivati anche degli egiziani qui da noi, stanno sbarcando sulle coste anche calabre, Cariati. Ieri, se non sbaglio, c'è stato il primo sbarco addirittura in Sardegna, quindi sono addirittura approdati fino a Sardegna. Bene, dicevamo di questa gestione criminale, ecco, criminale forse è il termine più giusto per rappresentare quello che sta facendo il governo. Man mano che gli immigrati si sono riversati a Lampedusa, il governo ha fatto di tutto per non farli arrivare in Italia, non per altro, perché volesse in realtà aiutarli o per qualsiasi altro motivo umanitario. Qui poi si potrebbe fare anche un'altra molto importante discussione, e poi la faremo magari, ma perché? Perché volevano evitare che questi qui si svuotassero, altro termine brutto, svuotassero l'isola, e consentendo l'arrivo di altri immigrati. È un po' come prendere una bagnarola, visto che parlavo di liquidi, riempirla, e se tu la riempi non la svuoti, non si può riempire ulteriormente. Bene, questo è quello che voleva fare il governo. Una volta giunti circa 5.000 migranti a Lampedusa, non farli uscire più dall'isola per non farne arrivare altri. La conseguenza è stata quella di farli letteralmente morire di fame, perché a fronte di 4-5.000 persone c'erano soltanto 2.200 pasti al giorno, come diciamo già durante la scorsa trasmissione, e di conseguenza questi profughi pativano la fame, la sete, condizioni igienico-sanitarie degne di un porcile, e di conseguenza si sono anche mobilitati per manifestare la loro rabbia contro una gestione della situazione veramente ai limiti del lager, del campo di concentramento. Come non bastasse, alcuni di questi migranti sono stati trasferiti negli scorsi giorni a Manduria, vicino Taranto, in provincia di Taranto, dove il governo ha dato ancora molto prova della sua incapacità. Questa volta però ne siamo contenti, perché cosa è successo? È successo che circa 1.700 migranti sono riusciti ad evadere da questo centro di prima accoglienza, che poi sono ancora una volta, come diciamo, delle specie di carceri, e si sono riversate per le campagne della Puglia sotto gli occhi degli agenti che cercavano di fermarli, ma che non potevano fermare un'ondata di persone disperate che cercava di fuggire. E da questo punto di vista non possiamo che essere contenti, per fortuna che succedono queste cose, per fortuna che riescono a ribellarsi a queste situazioni veramente veramente drammatiche. Dicevamo, stavo dicendo per l'appunto, una delle cose paradossali, una delle grandissime contraddizioni di tutto quello che sta avvenendo in questi giorni è che lo stesso governo che dice noi interveniamo in Libia perché vogliamo salvaguardare la popolazione civile, spendendo fior di quattrini per imbastire delle azioni militari che sono azioni di guerra, come dicevamo precedentemente, è lo stesso governo che poi non vuole sfamare qualche migliaio di persone che arrivano affamate, stanche, sporche, in stato anche una specie di disattrazione, ferite, non vuole sfamarle. Noi pensiamo che molto probabilmente costa molto di meno dare qualche pasto in più a questi migranti piuttosto che andare a bombardarli in casa loro, o sbaglio. No, oltretutto la cosa, tra virgolette, squallida di questo paese è che poi ci commuoviamo nel momento in cui vediamo che viene alla luce il primo bambino che è nato su un barcone, insomma. Siamo alla solita ipocrisia. Ipocrisia che si è manifestata in maniera proprio bassa, permettimi questo termine, anche da parte del nostro super ministro La Russa. La Russa, infatti, si è affrettato a considerare i poveri profughi tunisini non più come possibili richiedenti asilo, ma bensì come degli immigrati irregolari. Questo perché? Clandestini li chiama. Perfetto. Questo perché in Tunisia adesso non c'è più la guerra. E quindi, visto che non c'è più la guerra, non hanno motivo di scappare giustamente dalle loro terre. E per questo motivo, secondo la legge Bossi-Fini, vengono considerati immigrati irregolari, clandestini, appunto, quindi da scacciare via. Il problema è che, proprio come dire, questa legge Bossi-Fini ha creato questo, possiamo dire, buco normativo, perché al momento i tunisini che arrivano non si sa come trattarli. Come dire, la legge Bossi-Fini gli è ritornata indietro in un attimo. Questo fatto del reato della clandestinità gli è tornato indietro come un boomerang. Quindi adesso si trovano in mezzo a questo praticamente buco normativo, oserei dire io. Non si sa bene come trattarli questi tunisini. E infatti non vorrei dire una scemenza, ma quello che dicevi tu prima sul caso Manduria, gli agenti di polizia, a quanto ho capito, non possono far nulla per trattenere le persone all'interno, proprio perché queste persone non si sa bene ancora come trattarle da un punto di vista proprio giuridico. E infatti, altrimenti non ci si spiega come 1700 persone riescano ad evadere, diciamo questo termine, a scappare, non lo so, da un centro, oltretutto appena istituito, appena fatto. La politica che sta utilizzando il governo non è altro che quella di un CIE allargato, così come il modello Marchionne sta tentando di imporsi in tutte le fabbriche, vuole tentare di imporsi in tutte le fabbriche, prima della Fiat e poi, speriamo di no, in tutte le fabbriche italiane, così il modello CIE dei centri di identificazione ed espulsione viene applicato non più a delle semplici, tra virgolette, strutture, ma bensì a un'intera isola, a un intero fenomeno praticamente. Bene, dopo questo lunghissimo sproloquio mandiamo un'altra canzone, Pancreas, terrorista nato. Una mattina giunge l'eco delle bombe, l'adrenalina in corpo con la rabbia che mi spinge a protestare, far saltare tutto in aria. Mi è arrivata la notizia, è una guerra umanitaria. Solo, è una belva sanguinaria, barra sul suolo, leggeremo solo bombe, cosa è stata intelligente, 4 giorni ed è finita, tanto tu non senti niente, anestetizzato dalla NATO, mi sento sollevato, a rischio di confondermi tra profugo e immigrato, 7 lavametri faccio volentieri senza, il profugo lo accetto perché lava la coscienza. We'll be right back. sinistra, profugo e immigrato. Se te i lavavetri faccio volentieri senza, il profugo lo accetto perché lava la coscienza. E siamo nuovamente in diretta. Caro Cicillo, cari ascoltatori di Banda Armata, starete notando che durante questa puntata il livello della musica è letteralmente migliore rispetto alle ultime puntate. Questo perché oggi pomeriggio c'è stato un colpo di stato interno al collettivo P2 che organizza e ospita, diciamo, queste trasmissioni. Abbiamo defenestrato coloro che non sono d'accordo con l'anima fricchettona, musicalmente parlando, della radio, e quindi siamo riusciti ad imbastire una scaletta fatta di canzoni molto molto belle, cercando di eliminare quegli aspetti negativi che personaggi come Flavio e come Gustavo ogni volta cercano di introdurre nel nostro programma. Mi dissocio completamente da quello che ha appena detto Pierpaolo. L'importante è che il colpo di stato interno sia riuscito. Vabbè, dai, dopo questa parentesi torniamo a fare le personcine serie, o meglio cerchiamo di essere un pochettino meno balordi di quello che siamo normalmente, e continuiamo a parlare sempre di guerra in Libia. Allora, la canzone che abbiamo appena sentito, Terrorista Nato, dove è nato ha un doppio senso ovviamente, aveva il ruolo di introdurre l'argomento di cui parleremo ora, ovvero di una manifestazione chiamata per sabato 16 aprile a Napoli. Cosa succede? L'Assemblea Napoletana Contro la Guerra, formata da diverse realtà organizzate, non solo, anche collettivi universitari come il nostro, ha lanciato un appello alla mobilitazione per l'appunto per la realizzazione di una manifestazione, come dicevo prima, il 16 aprile, sabato, a Napoli, contro la guerra in Libia, contro tutte le guerre, dice un pezzo dell'appello, come è già successo nei Balcani, in Afghanistan o in Iraq, alla devastazione della Libia, e via dicendo. Per l'appunto è una manifestazione che si oppone a tutte queste forme di guerre imperialiste che l'Occidente ogni volta, per motivi economici o di altro genere, mette in atto praticamente ogni 4-5 anni più o meno. L'appello è un appello molto interessante, al quale il collettivo P2 Occupata ha risposto aderendo. Infatti ci muoveremo, penso che un bel po' di studenti si muoveranno dall'Università della Calabria verso Napoli. La scelta della sede di Napoli quale luogo per la manifestazione non è casuale, non l'hanno fatta perché napoletani, ma l'hanno fatta per un motivo molto importante. Napoli infatti è sede di un'importantissima base militare NATO che negli ultimi giorni è diventata il comando generale delle operazioni militari che si stanno per l'appunto tenendo in Libia. Di conseguenza è il cuore, il cervello di queste operazioni militari, quindi andare a fare una manifestazione per l'appunto in quella di Napoli ha un significato politico piuttosto importante. Andare a manifestare di fronte a questa base militare della NATO il nostro dissenso verso qualsiasi forma di azione militare in Libia, così come in qualsiasi altro posto del mondo, ha assolutamente importante a nostro modo di vedere. Tra l'altro l'appello lanciato dall'Assemblea Napoletana Contro la Guerra parla anche di una possibile manifestazione, cioè possibile assemblea il giorno successivo alla manifestazione, cioè il domenica 17 aprile, un'assemblea nazionale del Movimento Contro la Guerra, per discutere insieme come proseguire la lotta contro questa infame politica che va a seminare in nome dell'umanità e della democrazia morte e distruzione presso altri popoli, recita una parte dell'appello. Cicillo, tu volevi aggiungere qualcosa di sicuramente importante, vero? Sì, io diciamo vorrei sottolineare la furbizia nelle scelte di dove andare a fare le basi. Con tanti posti la sono andata a fare proprio a Napoli. Napoli normalmente è una polveriera per i fatti propri. Figurati tu ad andare a installare lì una base NATO. Lì i napoletani non ti fanno passare nulla. È già da tempo, sia i collettivi e le realtà organizzate di Napoli, che non solo, tutto il movimento diciamo che è contro questo genere di interventi militari di stampo ovviamente imperialista, ogni volta che si ripropone purtroppo, doveroso sottolinearlo questo purtroppo, l'occasione si fanno sentire da quelle parti. Ripeto, la scelta di fare una base a Napoli è stata quanto mai infelice, se non altro appunto proprio perché sono napoletani, mi permetto di dirlo io, ma nel senso buono, essendo tra virgolette molto legato a quella terra personalmente, voglio dire, la prossima volta scegliete un posto un pochino più tranquillo, maledetti americani. Sempre per restare in tema di basi militari e di guerra, è proprio fresca la notizia secondo cui gli ufficiali della USA Navy, cioè gli ufficiali della Marina americana, vorrebbero tornare in possesso della vecchia base sita in La Maddalena, nell'isola della Maddalena, la bellissima isola della Maddalena in Sardegna. Chiaramente una base che era a suo tempo stata chiusa, proprio la famosa base in cui si sarebbe dovuto tenere il G8 del 2009 poi spostato chissà perché all'Aquila. Bene, per fortuna i sardi, i tosti sardi, hanno già detto no, non vi vogliamo, mentre gli americani hanno fatto dei sopralluoghi e vorrebbero tornare a prendere possesso del luogo. Beh, dopo questo breve incidio che comunque rende un po' l'idea del fatto che di sicuro i tempi di guerra non sono mai finiti, semmai stanno tornando fortemente in auge. Diciamo di questa assemblea, il collettivo, abbiamo già detto, ha aderito alla manifestazione del 16 perché riteniamo importante opporci agli interventi militari. Questa è una manifestazione che si vuole schierare al fianco del popolo libico e tutte quelle popolazioni in rivolta nell'area che non hanno certamente bisogno di essere aiutate con delle bombe, di essere bombardate e uccise dalle bombe occidentali, già se ci pensano i vari Gheddafi, i vari Ben Ali, i vari Mubarak, i vari dittatori che nella regione del Nord Africa, nella regione medio orientale certamente non mancano. Di conseguenza non vediamo la necessità di ulteriori aggressioni da parte delle potenze occidentali. Le rivendicazioni dell'appello sono ovviamente la fine immediata dei bombardamenti e dell'aggressione militare, e non potrebbe essere altrimenti. La fine di ogni ingerenza straniera, comprese l'ipotesi di embargo e di sequestro dei beni libici non meno criminali dell'aggressione militare. Punto condivisibile o meno. Terzo punto, il diritto d'asilo per tutti i profughi e migranti in fuga, e su questo non possiamo che essere d'accordo, anche perché abbiamo appena parlato della pessima condizione in cui versano tutti i migranti che si sono riversati sulle nostre coste nelle ultime 3 o 4 settimane. Il taglio delle spese militari e l'utilizzo di fondi e mezzi per le vere priorità sociali di un'Italia in crisi, e questo è giustissimo, ne parlavamo la scorsa settimana sia durante la trasmissione martedì scorso che la mattina durante l'incontro con Giorgio Cremaschi, importante esponente della FIAM nazionale. Ci sono tanti di quei problemi che i cittadini italiani in questi ultimi anni si stanno sobbarcando sulle loro spalle, dal lavoro allo stato sociale alle pensioni che sono tagliate, per arrivare all'università non c'è assolutamente bisogno di andare a fare andare a spendere soldi per spese militari, per l'appunto. Insomma, specialmente nel momento in cui ci piace diciamo ricordare allegramente che l'anniversario dei 150 anni dell'Unità d'Italia, alcuni tra cui stessa la Marcia Gaia non volevano farlo fare perché sarebbe costato troppo alla produzione del sistema economico, quindi ci sarebbe stata una perdita in termini economici, quindi si fa un ragionamento prettamente economico per un giorno di festa, per carità. La mia opinione sul 150° anniversario dell'Unità d'Italia è critica per una serie di motivi che adesso non sto qui a dire, se no andiamo troppo oltre. Certo che però se mi fai delle motivazioni, mi poni delle motivazioni economiche riguardo appunto a questo anniversario, poi non mi puoi andare a sperperare soldi per una missione che di umanitario appunto non ha nulla. Qui concludiamo il corposo capitolo internazionale della nostra puntata, che ha coperto buona parte della nostra trasmissione. Mandiamo un'altra canzone, Super Acqua dei No Relax. L'acqua costa più di coca e fanta, in certe città l'idraulico non serve più. I ghiacciai si stanno sciogliendo ormai, il mare sale, l'acqua dolce quasi non c'è più. Vorrei essere nel passato che mi raccontavano. Ti sei mai chiesto come fai se l'acqua non c'è più? Non manca molto a questo, pensaci anche tu. Bene, rieccoci in onda qui dalle frequenze di Banda Armata e Fuori Onda Radio. Come avete potuto intuire da questo pezzo e dal tema trattato, cambiamo decisamente argomento, passiamo dalle questioni internazionali a quelle decisamente più locali. Parliamo appunto della questione dell'acqua. Parleremo di questo argomento ricordando e lanciando quella che è un'iniziativa che verrà fatta qui all'università giovedì 7 aprile alle ore 3. In particolare è una delle tante iniziative che da questo momento in avanti verranno fatte e, aggiungo io, dovranno essere fatte per rilanciare quello che è appunto il referendum a cui dobbiamo partecipare numerosissimi. Interverrà un esponente del Comitato Nazionale, Martinelli appunto, che esporrà e spiegherà a tutti noi studenti, e mi auguro non solo studenti, magari la visione di qualche professore o ricercatore non farebbe male, i motivi per cui dire sì ai due quesiti. Due quesiti che vogliamo ricordare quali sono le finalità. La finalità del primo quesito è quella di fermare la privatizzazione dell'acqua, quella del secondo è quella di eliminare quelli che sono i possibili profitti che possono essere generati dalla gestione dell'acqua, appunto. Soffermiamoci un momento su quello che è il primo quesito. Questo quesito va appunto a stabilire come modalità ordinarie di gestione del servizio idrico l'affidamento l'affidamento a soggetti privati. In particolare questo affidamento può avvenire o attraverso un'apposita gara oppure tramite l'affidamento a società a capitale misto pubblico-privato, purché la partecipazione del privato sia almeno del 40%, e questo 40% mi fa tornare un limite che era stato inserito a proposito della riforma Gelmini. Sarà un numero che nella cabala probabilmente ha un significato particolare, altrimenti non è possibile che lo inseriscono di continuo. E questo privato deve essere appunto scelto attraverso gara. C'è Pierpaolo che appena ho pronunciato il 40% mi ha guardato con gli occhi illuminati, proprio perché probabilmente anche a lui era venuto in mente questo fatto qui. È una percentuale che rievoca spiacevolissimi ricordi, specialmente per chi ha passato diverse giornate dietro il testo della maledettissima legge Gelmini, e quindi veramente meglio dimenticarlo. Sì, decisamente. Purtroppo è un argomento che dal punto di vista dell'iter legislativo sappiamo come è andato a finire, da un punto di vista di lotte di noi studenti non è finito, scusate l'eufemismo e il neologismo, nemmeno per il cazzo, perché i problemi per il governo devono ancora iniziare. Comunque, torniamo nuovamente sulla questione acqua e continuiamo il discorso sul primo quesito. Con questa norma, appunto, come abbiamo potuto capire, si vogliono mettere definitivamente sul mercato quelle che sono le società, tra virgolette, le istituzioni che in questo momento gestiscono l'acqua nel nostro paese, che sono appunto gli ATO. Su 92 che ne esistono in Italia, ben 64 dovranno procedere a questo genere di trasformazione della loro forma sociale, della loro appunto costituzione interna, andando sul mercato e quindi aprendo al profitto quello che è necessariamente il compito di un'azienda che deve gestire qualcosa. Si passa appunto da quello che è un concetto di servizio a un concetto di bene materiale, bene su cui l'unica cosa da fare è lucrarci. Non ci interessa niente se l'acqua, per esempio, arriva sporca o con livelli, parlo ad esempio di un caso nella provincia di Viterbo, di arsenico che è ben, se non sbaglio, 5 volte superiore alla legge, ai limiti di legge fissati. Ma questo problema non interessa più, tra virgolette, chi gestisce. L'importante è che tu paghi, perché l'acqua non è più appunto quello che viene considerato un bene essenziale per la nostra esistenza, ma bensì una merce su cui appunto lucrare. Ed è appunto su questo secondo termine, lucro, profitto, che interviene quello che è il secondo quesito, che appunto, ricordiamo, la finalità di eliminare i profitti che si possono generare dalla gestione dell'acqua. E in particolare viene proposto quella che è l'abrogazione dell'articolo che dispone che la tariffa per il servizio idrico sia determinata tenendo conto dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito. Ho citato ovviamente il passo dell'articolo perché non avrei mai potuto ricordarmi una cosa scritta in legalese. E appunto attraverso questa ultima frase, adeguatezza della remunerazione del capitale investito, si introduce quello che è un vero e proprio cavallo di Troia all'interno della gestione dell'acqua. E quindi attraverso queste semplici parole si dice: ebbene, anche l'acqua non è più da gestire come un servizio che lo Stato, che la comunità deve gestire e offrire appunto a chi ne deve usufruire, ma bensì una merce sulla quale è necessario, perché la missione, la mission, come piace dire nei termini economici, di un'azienda che gestisce qualcosa, è semplicemente fare profitto. Che il servizio venga erogato bene o male non ce ne frega niente, l'importante è che tu, che ne usufruisci, sborsi un pochino di soldi. Quindi attraverso questo quesito referendario si impedisce di fare profitti essenzialmente sull'acqua. Ribadiamo che come collettivo abbiamo aderito a quello che è il comitato referendario dell'Unical, una struttura tra virgolette lasciatemi passare il termine, trasversale a quello che sono le varie formazioni collettive all'interno dell'università. E intendiamo, come ho già detto prima, oltre a questa iniziativa del 7, ricordo l'ora, alle 3, di partecipare numerosi, oltretutto, dobbiamo portare avanti altre iniziative e fare un'operazione massiccia di sensibilizzazione per portare quello che è il maggior numero di persone a votare per il referendum e quindi a raggiungere il quorum. Solo un'ultima cosa, poi passo la parola a Pierpaolo che invece ci parlerà dell'altro quesito, affronteremo il quesito sul nucleare. Sul referendum, sulla data del referendum, ci sono state delle controversie. Sappiamo che ci sono delle elezioni a breve, a maggio. Il 15 e il 16 maggio prossimo le amministrative. Vota Antonio. Appunto, si è scelto, temendo quella che poteva essere una naturale partecipazione dei cittadini a un momento comunque per loro importante, quali quello delle elezioni, di disaccoppiare quello che poteva essere il momento referendario col momento delle elezioni, appunto perché si temeva questa affluenza al referendum che avrebbe fatto superare il quorum e probabilmente, penso io, avrebbe anche bocciato queste leggi nefaste. E quindi, contrariamente a ogni principio, sia di buonsenso che, purtroppo mi tocca fare anche questa volta l'intervento, schifosamente economico, si sono buttati all'aria ben 400 milioni di euro per separare queste due date. Non so che dire, insomma, passo la parola adesso a Pierpaolo che toccherà quello che è il tema del nucleare, un altro tema molto attuale, insomma. Invitandovi a votare sì, sia relativamente ai quesiti referendari dell'acqua, sia a quello relativo al nucleare, per l'appunto iniziamo a parlare del nucleare. Il nucleare è già una tematica che abbiamo affrontato alcune puntate fa, che stiamo affrontando con una certa frequenza, purtroppo, dopo, sia in occasione in vista del prossimo referendum, della vostra prossima tornata referendaria, sia purtroppo alla luce di quello che è successo in Giappone. Ed è proprio della questione di Fukushima che vorrei parlare inizialmente, per introdurre la questione del nucleare. Proprio odierna la notizia secondo cui le condizioni, la situazione delle acque nei dintorni di Fukushima in Giappone sono veramente terribili. Sappiamo tutti che il terremoto che ha scosso il Giappone qualche settimana fa ha provocato uno tsunami che ha letteralmente mandato in runaway la centrale nucleare di Fukushima, che è praticamente in panne in questo momento. La traduzione di runaway è letteralmente in casino la centrale. Esattamente, perdonate il tecnicismo, ma ogni tanto me ne concedo qualcuno. Va bene, facciamo gli seri, torniamo ad essere seri. La stessa società che gestisce l'impianto di Fukushima oggi ha detto che i quantitativi di iodio 131, un isotopo radioattivo che non fa certamente bene alla salute degli esseri viventi, superano di 7,5 milioni di volte i valori normali. È qualcosa di inimmaginabile, cioè se il limite è 1, il valore assunto dai quantitativi di iodio 131 in mare è arrivato a 7,5 milioni di volte tale limite. E questo prima ancora che 11.500 tonnellate di liquidi contaminati, cioè di acqua contaminata, fossero rilasciati in mare. Bene, dicevamo qualche puntata fa che nostro modestissimo modo di vedere la situazione che si è generata a Fukushima non è certamente molto distante da quella che si era creata 25 anni fa in quel di Chernobyl. Nonostante le rassicurazioni che le autorità giapponesi, le autorità occidentali in generale in queste settimane si stanno prodigando a dare, e in effetti la situazione in questi giorni qui si sta dimostrando via via sempre più drammatica. parlavo per appunto di questi valori abnormi di contaminazione che si stanno avendo, anche il cesio 137, 1,1 milioni di volte superiore ai limiti consentiti la sua concentrazione, e il problema ancora non si riesce a bloccarlo, perché la stessa società, sempre la TEPCO che gestisce questo impianto, non riesce tuttora a ad arginare la fuoriuscita di sostanze radioattive, proprio perché i reattori non si riescono a bloccare, sono andati fuori controllo e continuamente rilasciano sostanze radioattive. In queste settimane, come si è visto, quindi sta montando il dibattito sul nucleare in Italia, proprio in vista del prossimo referendum, e abbiamo notato che tutta la campagna pubblicitaria promossa a favore del nucleare in maniera subdola, attraverso una pubblicità mandata in onda più e più volte negli ultimi mesi sulle televisioni di Stato, anche la cosiddetta pubblicità del forum ambientale promossa da Chicco Testa, non sta andando più in onda, ci siamo resi conto, non va più in onda, proprio perché si sono resi conto che in questo momento qui parlare di nucleare è particolarmente sfavorevole per chi vuole promuoverne l'uso in Italia. Sicché il governo, in maniera viscida e vigliacca, ha deciso nelle scorse settimane proclamare la moratoria di un anno rispetto al decreto che, fregandosene del referendum di 25 anni fa con i quali gli italiani dissero no al nucleare, sta promuovendo invece il ritorno a questa terribile fonte di approvvigionamento energetico, senza considerare che poi ci sono tantissimi costi sia nella costruzione degli impianti, sia costi per poter andare a comprare l'uranio, il plutonio, che di certo non si trova nel giardino di casa, ma che costa, così come costa il petrolio, costa anche l'uranio e tutti gli altri materiali che si utilizzano all'interno, altre materie prime che si utilizzano all'interno delle centrali nucleari. Abbiamo parlato, abbiamo sprecato qualche usato, sfruttato qualche minuto per parlare di Fukushima, non tanto perché si vogliano riempire gli ascoltatori di concetti tecnici che non ci interessano e che non siamo neanche in grado di esporre in realtà, ma perché per far capire che nella realtà dei fatti, uno, a Fukushima sta succedendo un disastro inaudito, secondo, centrali nucleari sicure non esistono, possono essere tranquille, possono stare al sicuro per 40 anni per poi produrre un disastro di dimensioni inaudite da un momento all'altro, come è successo in Giappone. Poi in Italia le questioni sarebbero ancora complicate, perché l'Italia è presente dei territori altamente a rischio sismico, a rischio di frane, a rischio di alluvioni, in Italia ci sono le mafie che chiaramente potrebbero far salire ancora di più i costi di questi di costruzione di queste centrali nucleari. Perciò non solo per questo, invitiamo tutti gli ascoltatori e tutti gli italiani a votare sì per dire no al ritorno al nucleare il prossimo 15, 16, no, 13, 14 giugno, se non mi sono rincoglionito durante queste settimane. Bene, Cicillo, che dici? Mettiamo un'altra canzone, visto che ci stiamo dilungando troppo nei nostri discorsi. Sì, passiamo a un nuovo pezzo, a un altro pezzo musicale. Comunque, una piccola precisazione. Il tema dell'energia è un tema che va trattato con estrema delicatezza e estrema razionalità. È ovvio che non ci si può ridurre a parlare di nucleare sì, nucleare no, in termini semplicistici. Per quanto mi riguarda, nucleare no, al di là delle ovvie perplessità che ho su quelle che possono essere le scorie eccetera eccetera, sul fatto che in Italia, se per costruire, come diceva benissimo la pubblicità che abbiamo rubato al governo e che abbiamo mandato in apertura, per costruire un'autostrada ci vogliono 40 anni, non voglio nemmeno pensare a quanto tempo e come vengano costruite le centrali in Italia. Ma al di là di questo, quello che dicevo appunto è cercare di imbastire quello che è un discorso serio sull'energia. Abbiamo realmente bisogno di tutta questa energia, o forse è il caso di ripensare da capo completamente a questo modello economico che ci costringe a essere energivori, a essere sempre più dipendenti e bisognosi di una cosa che magari potremmo farne, non dico a meno, ma sicuramente potremmo averne in minore quantità. Comunque,

criminale governo. La seconda volta che dico criminale questa sera mi denunceranno, ma non me ne frega niente. Da questo criminale governo prevede la riscrittura parziale di una parte degli statuti di tutte le università italiane, in particolar modo prevede la riscrittura di tutta quella parte che riguarda la governance interna degli Atenei, cioè di come è strutturato al suo interno, organo per organo, ogni università. Si è discusso proprio di questo in questa assemblea di Ateneo promossa da Controverso, e sono emerse delle posizioni anche abbastanza differenti, Cicillo. Posizioni differenti perché a fronte di una della posizione di Controverso, che rivendica la possibilità di partecipare attraverso dei metodi comunque democratici, quindi assemblee, corpo accademico, partecipare alla riscrittura dello statuto con l'intento di migliorarne alcune parti. Per esempio in termini di democrazia all'interno dell'università, quindi offrendo più strumenti democratici, per esempio il referendum universitario. Bene, a fronte di una posizione del genere, comunque, che ci sentiamo di definire un po' compatibilista rispetto alla riscrittura dello stesso statuto, rispetto alla legge stessa, altri collettivi, in particolar modo il nostro collettivo, il collettivo P2 Occupati, invece si è posto in maniera molto più conflittuale. Molto più conflittuale la nostra posizione, la posizione del collettivo P2 è noi dello statuto non ne vogliamo sapere, semmai... Leo, parafrasando una canzone dello studio del Cosenza, do statuto non ne frega niente, incidenti a Leo, potremmo dire. E incidenti a Leo è proprio la filosofia di fondo che va ad accompagnarci in questo momento. Sì, noi siamo per, diciamolo chiaramente, noi siamo per il blocco della commissione statuto. Noi rifiutiamo assolutamente la legge Gelmini, di conseguenza rifiutiamo in blocco, in toto, senza remore alcuna, senza dubbi, la riscrittura dello statuto. La riscrittura di uno statuto che è uno statuto che dovrà seguire determinati paletti, dovrà muoversi entro paletti piuttosto stretti. Innanzitutto non è possibile riscrivere tutto lo statuto, ma si deve riscrivere soltanto una parte dello stesso statuto, quello che prevede la legge, e lo si deve riscrivere nel rispetto di quello che la legge Gelmini ha detto, e di conseguenza un CDA che prevede degli esterni che all'occorrenza potrebbero essere politici o imprenditori, e questo semplicemente ci fa rabbrividire. Sì, effettivamente ricordiamo questa cosa che ha detto Pierpaolo è molto importante, almeno diciamo per la lettura che ne abbiamo dato noi, quindi diciamo senza nessuna presunzione, abbiamo intuito che per riscrivere lo statuto non è che dici ah che bello posso scrivere lo statuto, faccio un po' quel cazzo che mi pare, magari che ne so, dico che le borse di studio devono essere totalmente coperte, dico che la rappresentanza degli studenti deve essere fatta in questo modo, dico che il rettore può amministrare l'Ateneo per 1500 anni. No, la cosa che diceva Pierpaolo è di fondamentale importanza. Ci sono dei vincoli all'interno dei quali bisogna muoversi, dei paletti appunto. Paletti tanto più stretti se pensiamo al fatto che dovranno essere ancora fatti i decreti attuativi. Quindi consideriamo già il vincolo stretto ideologico, fortemente ideologico, che la riforma Gelmini ha posto nel fare appunto questo testo di legge. Mettiamoci poi che in quasi tutta Italia, potremmo dire così, le commissioni dello statuto sono hanno forte rappresentanza di quelli che sono comunque i poteri baronali dell'università. Voglio dire, i margini di manovra sono realmente molto stretti, quindi diciamo, non condivido affatto quella che è la posizione del collettivo Ateneo Controverso, proprio perché la vedo di, oltre, come diceva Pierpaolo, magari possibilmente compatibilista, la vedo assolutamente impraticabile e, aggiungo io, anche irrazionale. Voglio dire, ci siamo battuti nel corso di 2 anni, dal 2008 fino alla fine del 2010, all'inizio del 2011, con battaglie che hanno assunto dei toni comunque abbastanza aspri, se vogliamo. Pensiamo al mese di novembre-dicembre, in cui sono state portate avanti un'occupazione di un mese e passa, passando dall'aula magna andando al rettorato, comunque si sono vissuti momenti di forte conflittualità anche all'interno della città. vuoi anche per la scia di emotività che la televisione aveva creato, poiché in tutta Italia stava succedendo il mezzo parapiglia, ricordiamo poi il 14 dicembre, voglio dire, dopo tutto questo che cosa facciamo? Buttiamo nel cesso tutto quello che abbiamo fatto, tentando di inserirci all'interno di queste dinamiche assolutamente istituzionali che, per quanto riguarda me, ovviamente non perché parlo a nome del collettivo e perché lo rappresento, ma perché è una discussione che ci siamo fatti all'interno, non rappresenta affatto quello che è il percorso che vogliamo portare avanti noi. Comunque, questo sull'Assemblea d'Ateneo era semplicemente un breve flash. Passiamo adesso a una nuova questione, ma prima uno stacchetto musicale, via. Canto il disagio di una generazione stanca della bugia, ancora 160 operai morti di gas e sfruttamento, i porci tutti assolti come sempre ridendo da chi serve obbedisce, stato incivile regna sovrano. Falso come al suo solito che vive nell'impunità vera, dove si è sempre boia e mai, dico mai, condannati. Ancora non sempre scrivo d'amore, ma sogno ancora. Sogno il fuoco, fuoco e fiamme. Basta la metà del sole, la metà di questa nostra vita, chiusa dentro una fossa comune. A Marghera si muore due volte, grazie a giornalisti e magistrati, grazie ai cavalieri del lavoro, a Marghera non si sogna più. Rieccoci in onda. Bene, il pezzo che abbiamo trasmesso poc'anzi non è casuale. Infatti cambiamo decisamente argomento e cambiamo anche toni, torniamo un minimo di serietà visto l'argomento che stiamo per trattare. Stiamo per parlare appunto del caso Marlane. La Marlane era una fabbrica situata a Praia a Mare che ha una lunga storia. Proverò a riassumerla più o meno brevemente. Una storia che va da circa il 1957 al 2000-2001, insomma, quando poi è stata chiusa, e ha attraversato una serie di fasi, diciamo, di passaggi di mano da una società a un'altra. Comunque, proviamo a fare un po' d'ordine. Tutto parte da un benefattore di nome Stefano Rivetti, detto il Conte, che appunto negli anni 50 sentiva e aveva capito che era possibile sfruttare lo Stato così come hanno fatto molte aziende, chiedendo finanziamenti allo Stato appunto per aprire nuove attività industriali. In particolare Rivetti aveva visto la possibilità di questi finanziamenti nella cassa del Mezzogiorno e decise di andare a fare beneficenza appunto in un'area della nostra penisola abbastanza particolare. Infatti decise di andare a creare questo nuovo polo industriale, possiamo dire così, all'interno della regione Basilicata, in particolare nella città di Maratea. Ora, il luogo non è stato scelto a caso. Al di là delle evidenti bellezze paesaggistiche che offre quella città, quel paese, Maratea si trova a ridosso sia della Campania che della Calabria, e questo permise a Rivetti, appunto, di ottenere dei finanziamenti anche dalle aree, dalle regioni Campania e Calabria, e non solo dalla Basilicata. In ogni caso, questo conte Rivetti, appunto, ha potuto muoversi indisturbato per molto tempo all'interno della Lucania, grazie alla complicità dell'allora Democrazia Cristiana e in particolare ad Emilio Colombo, un novellino della politica. Pensate, a 26 anni fu eletto deputato dall'Assemblea Costituente, che venne fatta nel 1946, pensate un pochino, e nel 1992 si è dimesso da parlamentare per incompatibilità tra ruolo di ministro e appunto deputato, che a quei tempi la DC poneva in essere queste difficoltà un pochino strane. Pensate, la DC poneva problemi del genere. Comunque, al di là di questo fatto, non è una storia nuova che la politica sia complice di operazioni del genere, di scempi industriali e non, sia nella nostra regione che possiamo dire in tutta Italia. In ogni caso, torniamo a quella che è la storia della Marlane. Rivetti, appunto, nel 57 andò a installare nella città di Maratea, appunto, la sua prima opera industriale, la R1. Il nome non era casuale: R stava per Rivetti, 1 stava perché era la prima. Ci tengo a sottolineare questo fatto della R che sta per Rivetti, perché questo personaggio era un megalomane essenzialmente. Così come ricordava e esprimeva giustamente un suo giudizio personale Francesco Cirillo, autore del libro che dopo ci citerò, insomma, questo conte Rivetti è stato un po' il Berlusconi degli anni 50, un uomo assolutamente ossessionato da manie di grandezza e quant'altro. Basti pensare, questa forse è una cosa che non tutti sanno, che il Cristo che si trova a Maratea ha un viso un po' particolare, non rappresenta in realtà... Il viso di Tarlo? Guarda, Tarlo ancora non esisteva, sebbene leggende dicano che sia una divinità precolombiana, quindi forse qualche traccia in qualche libro di archeologia si può trovare. Comunque, non si trattava di Tarlo, bensì si tratta dello stesso Rivetti. Adesso, voglio dire io, arrivare a farsi una statua, siamo d'accordo, qualsiasi megalomane lo può fare, ma assumere, diciamo, il volto all'interno di un contesto quale la statua di Gesù Cristo, voglio dire, è proprio il massimo della megalomania. Inoltre, la posizione con cui era stata posta la statua non era casuale, era rivolta a... un attimo solo, che c'è un'interruzione dalla regia. Questa statua non è rivolta verso il mare, così come per esempio fa il Cristo che si trova a Rio de Janeiro, quello sì un Cristo, ma rivolta verso l'interno. Ebbene, questa forma di, come dire, di ossessione che coinvolgeva il Rivetti non era casuale, proprio perché lui era arrivato in quella terra da benefattore per redimere dal peccato della povertà e della miseria la gente lucana, appunto. E quindi questo Cristo col suo volto che abbraccia idealmente la terra di Maratea sta a significare appunto questo suo impegno che aveva verso questa terra. In particolare, dopo la R1, ritorniamo un pochino alla storia della Marlane, si passa alla fondazione appunto di un'altra società, la R2, questa volta situata a Praia a Mare, quindi da noi in Calabria. Dopodiché questa R2 viene, le azioni di questa R2 vengono cedute all'IMI, l'Istituto Immobiliare Italiano, successivamente passerà alla Lanerossi, successivamente all'ENI, pensa un poco tu, caro Pierpaolo, l'ENI è dappertutto, e in questa fase assume il nome di Marlane Spa. successivamente passa al gruppo Marzotto, un altro benefattore dell'industria italiana. Ebbene, accennavo prima all'ovvia complicità politica che ha attraversato e ha accompagnato il percorso e la storia di questa industria. Devo sottolineare però, ahimè, tristemente, anche la complicità dei giornali. I giornali del Nord, infatti, tendevano a mitizzare ulteriormente questo Conte Rivetti, facendo notare come sia difficile portare un pochino di cultura all'interno di delle regioni del sud. Già allora praticamente i terroni esistevano, e quindi anche loro hanno contribuito alla formazione di questo mito del Conte Rivetti. C'è da dire un aspetto simpatico che ho trovato all'interno del libro, che si chiama La fabbrica dei veleni, che all'interno, quando ancora si parlava di R1 e R2, all'interno delle fabbriche non c'era ancora il sindacato, bensì erano presenti dei gesuiti. Nel momento in cui Pierpaolo ha avuto un rigurgito alla paura gesuita. Vabbè, ti cedo la parola, non sono più in grado di pronunciare nessun termine che abbia un senso compiuto. Quindi, se tu operaio avevi un problema di carattere puramente lavorativo, voglio dire di rapporti tra padrone e appunto lavoratore, non dovevi rivolgerti ad alcuna organizzazione sindacale in quel momento, ma ci pensavano i gesuiti a redimere i tuoi peccati da pericoloso sovversivo e la cosa tornava tutto a posto. Successivamente poi i sindacati entreranno all'interno della fabbrica con esiti forse peggio dei gesuiti, potremmo dire. In particolare, abbiamo scelto di trattare la storia della Marlane per il semplice motivo. Questa è una fabbrica che ha prodotto essenzialmente morti, non ha prodotto né vestiti, né lana, né tessuti. Pensiamo, 140 morti su 1100 operai. Tempo fa, quando studiavamo delle cose con l'amico Gustavo, leggemmo una frase che ci fece inorridire. Questa frase è il rischio accettabile di un'impresa. Ebbene, la cosa che mi è saltata subito in mente leggendo questo rapporto praticamente allucinante di morti rispetto a operai è che forse questo numero, questa proporzione fosse appunto il rischio accettabile che l'impresa aveva messo, diciamo, in preventivo nel momento in cui aveva deciso di iniziare a operare. Per quanto riguarda successivamente la storia della Marlane, quindi parliamo di Praia a Mare, è abbastanza paradossale, ma sempre relativamente, quanto la politica abbia influito nella vita di questa azienda. In questo caso mi viene da fare un paragone con la situazione della Fiat a Torino, dove Chiamparino aveva espresso posizioni assolutamente allucinanti: non possiamo permetterci il lusso di perdere la Fiat perché una città come Torino non è assolutamente bisogno. Ebbene, probabilmente lo stesso ragionamento l'hanno fatto i sindaci di Praia a Mare, che si sono tra virgolette alternati nel periodo di funzionamento della fabbrica, che sono appunto Carlo Lo Monaco e Antonio Praticò. Carlo Lo Monaco non era uno scemo qualsiasi, pensate, è stato l'ultimo direttore della fabbrica ed era il chimico di tintoria della fabbrica stessa, più volte citato dalle testimonianze degli operai che sono stati poi sentiti dalla procura di Paola per il processo che verrà inaugurato il 19 aprile di quest'anno. E appunto pensiamo come il chimico, come un chimico della fabbrica e sindaco della città, come non poteva avere interessi appunto affinché la fabbrica funzionasse tra virgolette in maniera spregiudicatamente capitalista e senza alcun genere di sicurezza. Infatti 140 morti non sono morti, diciamo, per caso o scivolando su una buccia di banana, bensì hanno contratto probabilmente tutta la gamma di tumori e carcinomi possibili che almeno al momento forse la medicina abbia scoperto e identificato. Si parla di 107 tipi di tumori diversi, voglio dire, praticamente su 140 morti, fatevi un pochino voi i conti. Il libro di Cirillo che appunto narra di questa fabbrica della morte, non a caso ha come fotografia di copertina un fotomontaggio, vale a dire la foto dei dipendenti della fabbrica appena costruita dietro ai cancelli tristemente famosi di Auschwitz, con in testa appunto al cancello la frase il lavoro rende liberi. Il lavoro rende liberi, permettete la battuta pessima, rende liberi dalla vita in questo caso, considerando che i morti sono stati davvero eccessivi. Per quanto riguarda appunto l'andazzo della fabbrica, ci sono state diciamo due figure in particolar modo che ho trovato interessanti nella lettura. Il primo è Francesco De Palma, recentemente scomparso appunto a causa di uno dei tanti tumori che si poteva contrarre in quella fabbrica, e questo Francesco De Palma ha rilasciato prima della sua scomparsa una testimonianza abbastanza importante. Infatti il De Palma afferma che nei giorni particolarmente del fine settimana, sabato mattina o sabato sera, quando dice lui non c'era nessuno, venivano sotterrati nell'area intorno alla fabbrica i bidoni contenenti i rifiuti dei colori della tintura, della tintoria, perdonate. Ma non solo, oltre a cospargere interamente il terreno della antistante alla fabbrica di questi rifiuti, c'era anche il depuratore che faceva il suo porco dovere, e nel momento in cui questo depuratore era pieno, magari malfunzionava oppure andava semplicemente ripulito, che cosa si faceva? Si prendevano gli scarti di questa pulizia, venivano buttati o lungo dei pergolati d'uva, oppure, perché no, buttiamoli nella nostra discarica preferita, che è appunto il mare. Consideriamo che da quegli anni fino ad adesso praticamente non c'è stato alcun divieto di balneazione antistante la fabbrica. Ricordiamo che Praia a Mare è appunto una località che è posta sul Mar Tirreno, e la fabbrica è immediatamente sul lungomare, quindi diciamo il percorso che dovevano fare i rifiuti era davvero minimo. Il divieto di balneazione è stato posto solamente ultimamente, ma semplicemente perché a ridosso appunto della fabbrica ci sta adesso una rimessa di barche, quindi le persone non possono fare il bagno semplicemente perché ci sono gli scivoli per le barche. Comunque, tornando alla vicenda della Marlane, c'è un altro personaggio molto importante all'interno di questa vicenda, che è anche il coautore del libro. Un ex operaio della fabbrica si chiama Luigi Pacchiano. Luigi Pacchiano all'interno del libro non fa altro che raccontare la propria esperienza di vita e di lavoro ovviamente all'interno della fabbrica, e denuncia con forza quella che è una vera e propria assenza sindacale che c'è all'interno della fabbrica. Perché prima dicevo che i sindacati hanno fatto forse peggio ai gesuiti? Perché i gesuiti, diciamo, erano stati messi lì dal padrone appunto per far tranquillizzare le persone. I sindacati, almeno per l'idea con cui sono stati creati e sono stati inseriti all'interno delle fabbriche, sono sempre lì, tra virgolette, per far stare buone le persone, ma comunque i lavoratori devono in ogni caso essere ascoltati da questi dirigenti sindacali. Ebbene, CGIL e CISL e UIL, che in quegli anni erano all'interno della fabbrica, non fecero assolutamente niente. Anzi, sabato scorso, quando siamo andati alla presentazione del libro, che è stata al rialzo, Luigi Pacchiano faceva appunto notare come porta sempre con sé un foglietto. Questo foglietto non è altro che un articolo di giornale scritto appunto dalla CGIL, CISL e UIL, in cui a suo tempo imponeva agli operai, in particolare al Pacchiano, di tacere, di non raccontare menzogne. Ebbene, se questo è il ruolo del sindacato all'interno di una fabbrica, non lo so, forse meglio i gesuiti. In ogni caso, il Pacchiano denuncia questa assenza di sindacati all'interno probabilmente a causa degli interessi che avevano nelle varie industrie che formavano l'indotto di questa fabbrica dei veleni, appunto, poiché molti di essi erano magari dirigenti di queste fabbriche. Denuncia il fatto che non venivano fatte quasi mai visite mediche, e quando erano fatte giusto per modo di dire. Non c'erano le schede dei rischi dei prodotti. Le schede dei rischi, tanto per capirci, sono quelle che ti dicono a cosa vai incontro quando maneggi un prodotto altamente pericoloso, quali possono essere acidi, eccetera, eccetera. E anzi, il pacchiano dice che in molti casi queste etichette non venivano proprio messe sui fusti. E il pacchiano conclude la sua intervista dicendo che lui si considera non tanto un sopravvissuto. Sopravvissuto solitamente si parla all'interno di disastri o di guerre. Ricordiamo che oltretutto il lavoro è una vera e propria fabbrica di morti, sia in Italia che non. Quella sì che è una guerra che andrebbe combattuta con forza. Ma si considera proprio un miracolato lui, poiché a lui ha contratto un tumore alla vescica ed è al momento ancora miracolosamente vivo ed è riuscito appunto ad offrirci queste preziose testimonianze. Finita la storia, la storia triste di questa fabbrica dei veleni, appunto, dove oltre a causare morte hanno creato probabilmente quello che è un disastro ecologico, si parla di rilevamenti di cromo esavalente. Andiamo all'attualità. L'attualità ci dice che il 19 aprile si inaugura appunto quello che è il processo contro i dirigenti dell'azienda, contro Pietro Marzotto, eccetera, eccetera. Ci piace ricordare brevemente quali sono gli avvocati della parte della difesa. Il primo è Ghedini. Chi non conosce il nostro caro Ghedini, il difensore di Berlusconi, nei processi di cui il Premier, dei centinaia di processi in cui il Premier è coinvolto. L'avvocato Giarda, difensore dello Stasi nell'omicidio della sua compagna, e poi abbiamo un personaggio che forse non tutti si aspetterebbero di trovare, che è Pietro Perugini, che è il fratello del nostro caro e amato sindaco di Cosenza. Pensate un poco. Una città come Cosenza che non si schiera a favore, diciamo, dei cittadini di un'altra città, ma bensì li combatte in quelle che sono le aule di tribunale. L'appello che mi sento di fare è semplicemente questo: il 19 aprile dobbiamo tentare di essere il più numerosi possibili a Paola sotto il tribunale, perché probabilmente, per nulla togliere agli avvocati, per carità, bravissimi, della parte offesa, ma dobbiamo cercare di fare il più possibile pressione su quelle che possono essere le opinioni tra virgolette dei giudici. Dobbiamo far capire che la società civile è presente, che non tolleriamo più che le fabbriche siano gestite in questo modo, che le fabbriche generano morti a scapito assolutamente della salute dei lavoratori. È bene ricordare, come nel caso della ThyssenKrupp, quanta gente è scesa nelle strade nel momento in cui si apriva il processo contro gli operai morti. Non dobbiamo sottovalutare questa cosa, dobbiamo appunto far sentire la nostra voce come società civile in quella che è l'apertura appunto del processo. E vorrei chiudere semplicemente con un aneddoto che ricorda anche Cirillo in uno dei suoi tanti articoli che scrive in giro per i vari giornali online, non so. Il 19 aprile è una data che potrebbe portarci fortuna, perché nel 1968 uno sciopero operaio a Valdagno, in provincia di Vicenza, sede di quello che è l'impero Marzotto, durante il corteo abbattono quella che è la statua del padre Gaetano. E come dice Cirillo, noi ci auguriamo che il 19 aprile di questo anno possiamo anche noi abbattere figurativamente quelle che sono le statue dei vari Marzotto, dei vari Lo Monaco, dei vari Rivetti, eccetera eccetera. Dobbiamo tentare di riappropriarci di un pezzo di verità e un pezzo di vero e proprio riscatto sociale che ci spetta. Bene, dopo avervi ammorbato con questa lunga e triste vicenda della Marlane, vado con uno stacco musicale, una canzone che forse non molti di voi conoscono, è abbastanza sconosciuta. Cala la notte, mette a posto le cartelle, reggono i calzoni con due comode pretelle, rasano la terra.

quest'ultimo pezzettino di trasmissione sarà, penso, piuttosto divertente. Di cosa parliamo? Parliamo di antifascismo, come si può capire dalla canzone appena ascoltata, rigurgito antifascista dei 99 Posse. E perché parliamo di antifascismo? Beh, l'antifascismo innanzitutto è un argomento sempre e comunque attuale, sempre comunque odierno, specialmente in questi giorni in cui pare che il governo, tra le tante porcherie che sta facendo, sia intenzionato anche tra una legge ad personam contro il processo Ruby, provvedimenti contro l'immigrazione clandestina, come la chiamano loro, sta pensando anche di abolire il reato di apologia di fascismo. Ma quindi non possiamo che non parlarne, ma soprattutto ne parliamo perché venerdì scorso, quindi venerdì 1 aprile, pesce d'aprile, c'era fatto un bel pesce d'aprile, diciamo, dai, Francesco Storace, leader della destra, ex picchiatore degli anni 70 e 80, è stato ricevuto con gli onori del caso alle 18, alle 6 di pomeriggio, al salone di rappresentanza del comune di Cosenza, a Piazza dei Bruzi, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede della destra, sede provinciale, in via Coloprese a Cosenza, un angolo di Piazza Ferrara, quindi una posizione anche piuttosto centrale, proprio attaccata al free pub. Ci auguriamo che qualche ubriaco faccia qualche scherzetto alla sede, perlomeno. Cosa è successo? È successo che un piccolo gruppo di militanti antifascisti, che ha saputo all'ultimo della sgraditissima visita di Storace a Cosenza, che è città storicamente antifascista, un piccolissimo gruppo, dicevo, di 15 militanti, tra i quali il sottoscritto, tra i quali anche il nostro buon Ciccillo. Eh sì, ci sono anch'io. Ci siamo recati pacificamente davanti alla sede del comune, muniti di scotch, di poster, di manifesti, con scritte antifasciste ovviamente. Tra queste scritte ce n'era una particolarmente carina, Dux Maas Hux. Ci siamo diretti verso il comune per fare una simpaticissima e pacifica manifestazione di dissenso nei confronti di un fascista. Siamo antifascisti, lo rivendichiamo e lo mettiamo in atto anche in piazza. Sì, che uno dei ragazzi che ha partecipato a questo sit-in, neanche un sit-in, a questa piccolissima azione, ha deciso di fare una provocazione molto molto carina, veramente esilarante anche questa. Si è detto verso Storace, per stringergli la mano, gli ha stretto la mano, e mentre gli stringeva la mano gli ha detto in dialetto cosentino: che belli ma facci merda che tieni. A questa provocazione il fascista ovviamente non poteva che rispondere con la violenza. Infatti ha cercato di sciunnarsi contro il povero F, non diciamo il nome per esteso per evitare problemi al ragazzo, ha cercato praticamente di aggredirlo fisicamente, inveendo, insultandolo, sicché addirittura gli uomini stessi della Digo sono dovuti intervenire per proteggere il nostro compagno antifascista. No, c'è stato in effetti un piccolo malinteso. La cosa che si è venuta a verificare è che il nostro burlone F non ha fatto altro che mettere in pratica quella che è la trasmissione, una rubrica della trasmissione delle Iene, che è Mortacci tua. Mortacci tua non si fa altro che insultare pubblicamente una persona importante, e quindi forse la Digos ha capito questa cosa e ha tentato di ripristinare l'ordine. L'ordine è incredibile, siamo stati difesi dalla Digos, potremmo dire. Questo è l'unico aspetto negativo della giornata, perché sinceramente essere divisi da coloro che normalmente ci denunciano, da coloro che normalmente ci reprimono, è alquanto insolito per noi altri, ma va bene lo stesso. Forse ho dato uno schiaffo, sarebbe stata nient'altro che la dimostrazione, ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, non ce n'è bisogno, della violenza inaudita dei fascisti, di cui Storace ovviamente è uno eccellente esponente. Subito dopo siamo andati anche a manifestare il nostro sentimento antifascista davanti alla sede della destra, applicando con lo scotch alcuni altri manifesti, alcuni con la scritta Storace boia, davanti alla sede della destra, appena appena inaugurata. Tornando ad essere un minimo seri, ci auguriamo che la sede sia frequentata innanzitutto da pochissima gente, e che se, qualcuno debba frequentarla, speriamo che siano i soliti diciamo vecchi quattro stronzi ultra settantenni che magari a causa dell'arteriosclerosi si dirigono verso queste questa sede. Speriamo vivamente che non siano i giovani della nostra età o ancora più giovani a frequentare un posto del genere, perché questo sarebbe un chiaro segnale che le cose a Cosenza si stanno mettendo male da questo punto di vista. Cosenza, lo ribadisco, è una città felicemente storicamente antifascista, e quindi noi ci teniamo fortemente a far sì che Cosenza rimanga tale, forse l'unica tra i quattro luoghi di provincia calabresi, l'unica isola veramente felice da questo punto di vista, quindi ci teniamo affinché rimanga tale, augurandoci che la sede della destra chiuda il prima possibile. Sperando che personaggi come Tilger o come Storace possano rimanere nelle loro bravissime dimore, nelle loro fogne, stavo per dire appunto questo, insomma. Sì, dobbiamo ricordare che appunto qualche mese fa c'è stato anche Tilger a Cosenza, la nostra incursione anche in quel caso ci ha creato questa volta un po' più di problemi, visto che un compagno è stato denunciato. In ogni caso ci sembrava doverosa fare questa uscita in città, proprio perché ci teniamo a ribadire quello che ha detto Pierpaolo: in questa città non c'è spazio per idee xenofobe, razziste e fasciste, proprio perché da sempre Cosenza ha questa tradizione sana dell'accoglienza, ma non l'accoglienza come la intende Perugini o qualcun altro, accoglienza fatta da ragazzi che quotidianamente lavorano con migranti o con persone che hanno altro genere di disagi. E in ogni caso, appunto, ci teniamo a ribadire con forza questa nostra caratteristica. Bene, il mio intervento qui è finito, passo la parola al compagno Pierpaolo, che chiuderà. E sulla scorta delle parole di Cicino non possiamo che chiudere salutando i nostri spettatori, i nostri ascoltatori, augurandoci che crescano, che ci seguono trasmissione per trasmissione sempre di più. Salutiamo il nostro subcomandante Tarlo, che inutile dirlo ci è mancato tantissimo questa sera, speriamo in un suo ritorno il prima possibile, già dalla settimana prossima. Buona festa a tutti, vai con la sigla. Razzinga! Razzinga! San Pietro arriva coi pugni teologici. Razzinga! Razzinga! Tuona, si scaglia dal sagrato contro il male. Se sei nemico prega è già finita la chiesa, ma te ne dice razzinga! Razzinga! Croci rotanti, razzinga, Pater Noster, razzinga, ostia di fuoco, alla mente di Lutero, ma tutto il resto va da sé. Non conosce la paura né sa italiane che cos'è, lotta cade, si rialza, sempre vincerà. Razzinga, gli occhi sputa fuori salmi gamma, non c'è chi è forte più di te, razzinga, razzinga, ha la mente di Lutero ma tutto il resto fa da sé, non conosce la paura né sa italiane che cos'è, se bisogno puoi invocarlo con la Bibbia apparirà, razzinga. Razzinga, bombe gnostiche, Mazinga, Acqua Santa.